Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 15 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro e Duradio. Come vedete, oggi non sono sola per niente, perché di solito ero con Ignazio, ma oggi c'è anche Micaela Casalboni del Teatro Argine. Buongiorno, benvenuta, che ci farà compagnia per tutta questa settimana. Buongiorno anche da parte mia, salam aleikum a tutti quanti e a chi ci ascolta anche delle persone di lingua araba. Buongiorno. Certo, Ignazio De Francesco connesso da Montesole, siamo tutti connessi da luoghi diversi, è per questo che dietro di noi ci sono contesti differenti. Ma apro subito con le notizie di Cronaca Bianca, perché leggo questa notizia sul redattore sociale a firma di Alice Facchini: carcere e senza dimora, discriminazioni nell'accesso alle misure alternative. Ecco, questa è una bella denuncia da parte degli avvocati di strada, perché esclusi dalle misure alternative paradossalmente ci sono i senza tetto, le persone in situazione di difficoltà economica e di esclusione sociale, che sono quindi magari più portate per le condizioni in cui vivono a commettere i cosiddetti reati di povertà, e che avrebbero in realtà diritto più di altri alle misure alternative alla detenzione, ma non possono permettersele perché una casa non ce l'hanno. E quindi questa è la denuncia dell'avvocato di strada Sara Barbesi, che spiega che ecco che così il carcere diventa l'unica possibilità per l'esecuzione di pene anche di bassa entità. E questo crea chiaramente uno squilibrio tra i diritti dei senza dimora e di chi invece una casa ce l'ha, a tutti gli effetti. Purtroppo anche i servizi sociali non possono farsi carico di queste persone, e questo è paradossale, spiega l'avvocato, perché invece i soggetti come senza tetto avrebbero davvero bisogno di un accompagnamento per essere reinseriti in società e non possono appunto accedervi perché vivono in un disagio abitativo. E quindi bisognerebbe promuovere, questo è l'appello, strutture di riconoscimento da parte della magistratura che permettano di scontare una pena all'esterno del carcere anche a persone che non hanno un domicilio. Quindi appoggiamo. Di questo, se posso inserirmi, parleremo molto nel laboratorio di altro diritto, dovete seguire i laboratori di altro diritto, gli amici di altro diritto, che parlano proprio di questo, le misure alternative, come si fa e con le alternative al carcere. Assolutamente. Adesso passo la parola a te invece, che ci porti siamo in Algeria. Per dire questo, abbiamo parlato qualche settimana fa, chi ci seguiva, di una certa preoccupazione che c'è in Tunisia riguardo le fasce giovanili, diciamo i prigionieri dell'internet. Alla sera ci si chiude in camera e si passano fino alle ore piccole della notte, approfittando anche purtroppo del distanziamento sociale. Questo problema è molto avvertito anche in Algeria, e infatti l'agenzia APS, che è un'agenzia algerina di stampa, dice che è partita una campagna di sensibilizzazione sui pericoli dell'internet, proprio dedicati ai ragazzi. È partito, pensate, da una scuola primaria, quindi stiamo parlando di scuole elementari, la Malek Benabbi, nel comune di Didush, per mettere in guardia i ragazzi. Sapete che c'è il problema, ci sono dei pericoli, i ragazzi con l'internet possono essere accalappiati anche in giri brutti, i ragazzi, le ragazze, i bambini. Abbiamo avuto in Italia questa cosa terribile di una bambina di 10 anni che si è suicidata praticamente, incitata in un gioco molto, molto brutto. Ma direi che nel mondo arabo, dall'altra parte del Mediterraneo, la preoccupazione più grande è quella della rottura dei legami sociali. È un mondo dove stare seduti insieme a bere il tè e chiacchierare delle cose della vita di tutti i giorni è molto importante, e quindi questa scomparsa di una generazione che si allontana dal diwan arabo fa molta impressione. E posso dire che in qualche modo noi ci battiamo perché arrivi l'internet in carcere, lo desideriamo per tante cose, soprattutto adesso, però le persone in questo momento detenute rappresentano una certa frontiera di un modo antico di rapporto, che soprattutto il rapporto verbale, si sta seduti insieme a parlare. Questo è molto importante, sì, è vero. Io ho avuto esperienza, ma poi ce ne racconterà anche Micaela di queste cose, di una grande capacità di ascoltare molto più dentro che fuori. Questo sì. E allora, se, visto che parliamo di ascolto, se mi consenti, lanciamo il primo brano, facciamo un po' un giro sul Changa Changa, lo chiamano i miei amici di Damasco, cioè la musica araba ma corrente. C'è questo pezzo che poi di Rahman, che è un cantante compositore indiano, The Millionaire Soundtrack. Ascoltiamolo. आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है E rieccoci sulle note di Rahman Jeho, le note musicali di Jeho, anche colonna sonora di un film molto famoso, The Millionaire. E ritorniamo con te, Ignazio, per parlare consuetudinariamente del nostro galateo arabo, universale. Allora, oggi, questa settimana, trattiamo di un tema molto importante, il malal. Il malal, cioè la noia, cos'è che i nemici della pazienza, che in arabo si chiama sabr, uno dei nemici più potenti di sabr, la pazienza e la noia, perché quando uno si annoia poi può fare di tutto e quindi fare anche delle cose sbagliate. Allora, il primo consiglio che viene dalla sapienza araba è questo: el hadith ma asdika al mukarrabin an sabab shuur bil malal wadik, cioè parlare dei motivi della propria noia con le persone di cui ci si può fidare, con degli amici. Cioè tirare fuori i motivi della noia. E poi un'altra cosa, molto, mi sembra molto bella, al-ihtikak bil-alam al-kharigi min khilal il-julus ma asdika kudama, cioè entrare in contatto col mondo esterno. La noia, il malal, è sempre un rinchiudersi in se stessi. Come si vince questa noia? Aprendosi, guardando le notizie, parlando delle notizie, rendendosi conto che il mondo esterno è più grande spesso dei propri sentimenti. Grazie Ignazio. Ma dicevo all'inizio di puntata che qui con noi c'è un ospite speciale che ci accompagnerà tutta la settimana, Micaela. E per me è un onore averti qui, anche perché ti conosco e ti vedo per la prima volta, nonostante stiamo lavorando insieme da un po' di tempo. E tu sei, per l'appunto, per il Teatro dell'Argine, con direttrice artistica. Ho scoperto oggi questo termine, perché da voi la direzione artistica è collettiva, quindi tu la condividi con i tuoi due compagni, Nicola Bonazzi e Andrea Paolucci. E sei anche attrice da tanto tempo, guidi laboratori teatrali con adolescenti, adulti, principianti e professionisti, e sei quindi anche insegnante di teatro per attori professionisti, dicevo. Ma a me viene in mente una cosa, perché guardando la storia del vostro teatro, che ormai è presente sul nostro territorio da tanto tempo, dal 94, vi siete dati questo nome, dell'argine. E a me argine è una parola che mi rimanda a tante sensazioni, cioè tra il limite è sempre qualcosa che rimane sulla soglia. E quindi volevo chiedere a te come mai questa dicitura. È così. E allora, intanto l'onore è tutto mio, ma soprattutto il piacere, perché sapere che in questo momento ci stanno ascoltando dentro, fuori, è una grande emozione. passione, devo dire. Quindi grazie di avermi invitata. Teatro dell'Argine, perché quando noi siamo nati, non c'era ancora l'ITC Teatro di San Lazzaro, era chiuso per ristrutturazione in quel momento e non era ancora affidato a noi, diciamo. E avevamo come sede una piccolissima stanzetta a Ponticella, che è un quartiere di San Lazzaro, sempre grazie al comune di San Lazzaro, e stava sull'argine del fiume che passa per di là, che è questo fiumiciattolo minuscolo. Quindi al mio appunto amico fraterno Nicola Bonazzi è venuto in mente, ma in una sera in cui dovevamo assolutamente trovare questo nome, perché il giorno dopo si andava dal notaio a costituirsi come associazione culturale, non avevamo ancora un nome, ma perché non ci chiamiamo Argine? C'è un fatto naturale, cioè stiamo sopra l'argine di un fiume, e argine significa anche resistere alle intemperie, essere forti, ecco, per noi non aveva tanto il senso di tenere fuori, ma quello proprio di resistenza attraverso la cultura, il lavoro con gli altri, un'idea di teatro che è più dentro la relazione, ecco, che non l'esibizione. Ci interessa di più il teatro come scambio, che non da qua tutti i progetti appunto sul dialogo intergenerazionale, interculturale in Italia e fuori, perché lo spirito e la voglia è quella lì di andare oltre le età, le origini, la formazione di ciascuno per... Così la più bella arte l'abbiamo fatta in quel modo lì, credo. E da quanto tempo fate attività all'interno del carcere della Dozza in particolare? Allora, questo è interessante perché dentro la Dozza il nostro primo anno è stato l'anno scorso. Abbiamo fatto altre attività, per esempio a Castelfranco Emilia, nella casa circondariale, nell'ambito del Festival Trasparenza, cura del Teatro dei Venti di Modena, che poi credo ne sentirete parlare nelle prossime puntate, ma dentro la Dozza è stata la nostra prima volta. Avevamo fatto una lettura una volta questo accade grazie anche a questo bellissimo progetto, che è un progetto di rete nazionale che si chiama Per Aspera ad Astra, che coinvolge compagnie teatrali su tutto il territorio italiano e carceri su tutto il territorio italiano, in un progetto collettivo guidato dalla Compagnia della Fortezza, che insomma tutti conoscono, credo, per il lavoro fatto nella casa di reclusione di Volterra, e grazie a una fondazione di fondazioni, che è questa fondazione Acri, che raccoglie fondazioni bancarie sensibili ad attivare un processo che loro chiamano di visione, di trasformazione del carcere attraverso la cultura e la bellezza. Che trovo. Grazie, perché sarà una cosa che ti chiederò in questa settimana, in questi prossimi giorni, anzi, perché ci sarà una notizia che riguarda proprio questo, quindi mi dai occasione di rilanciarla fra qualche giorno. Ma adesso, siccome abbiamo parlato di senza fissa dimora, dell'importanza della casa, lancio io un brano musicale ed è molto attuale ed è di Dotan e si chiama Home, quindi casa. A presto e a domani. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Buongiorno Matteo, buongiorno, bentornato su Liberi Dentro. Ritrovata e bentrovati. E stiamo parlando della pace, perché l'altra volta abbiamo parlato della pace con se stessi, ma oggi merita parlare di un altro versante che secondo me non va mai disgiunto dal primo di cui abbiamo parlato, che è la pace con l'altro. Mai fare pace con se stessi senza aver fatto anche pace con l'altro. E quello che mi viene da chiederti subito è come si fa a fare pace con l'altro. Un primo passaggio, un primo consiglio. Dunque, anzitutto non è così scontata la tua affermazione, che è importantissima, è vera, molto vera umanamente e anche spiritualmente. Cioè, io non posso stare in pace con me stesso se non sto in pace con gli altri. Qualche volta pensiamo di sì. Cioè pensiamo, vabbè, ma io mi sono risolto, io non voglio pensarci, io metto via le cose, ma in realtà al massimo le mettiamo, facciamo come quando ero piccolo che nascondevo la polvere sotto per far prima sotto il tappeto, no? Mamma mi diceva di pulire, io buttavo là sotto, poi dopo chiaramente prima o poi bisogna ritirare fuori tutto quanto e qualche volta è molto peggio di prima, no? E ci si sorprende, ma guarda come sono. Quindi, per fare davvero pace con se stessi, bisogna fare pace con gli altri. Non basta dire, anche per esempio, non basta dire quindi, vabbè, io gli ho perdonato, però non lo voglio più vedere. No, non funziona, perché noi hai perdonato. Oppure, non so, io non ce l'ho con nessuno, ma nessuno mi venga a rompere le scatole, perché altrimenti, ecco, non funziona. Non stai bene, questo è il problema, cioè non stai in pace con te stesso, ecco. Allora, come si fa a fare la pace con gli altri? Dunque, guardate, qualche volta non è facile, non è facile. Bisogna crederci però, perché altrimenti non la fai. Bisogna volerla come qualcosa di cui non posso fare a meno, perché io non posso fare a meno di stare in pace con gli altri, perché se non sto in pace con gli altri non c'è pareggio, ci sto male. E quindi se non sto in pace con gli altri non sto in pace con me stesso e quindi vivo male. Quindi devo volerla a tutti i costi. Anche quando l'altro non la vuole. Ecco, perché questo è importante. Volta, sì, perché qualche volta diciamo, vabbè, io faccio pace, però me lo chieda lui. No, non va bene. Il primo passo per la pace, quello che comincia, no? Non è il più debole, è il più forte. Perché molte volte pensiamo, vabbè, io faccio pure pace, però venga lui da me. Io poi dopo gli dirò di sì. Quello non è questa non è forza, è debolezza. Il vero uomo, la vera persona, quello che davvero è padrone di sé e che crede nella pace e che vuole la pace, non può fare a meno la pace, va lui a fare, lui fa lui il primo passo. Quindi bisogna volerla, bisogna fare il primo passo. E la pace non è un interruttore, direi come terza cosa. Cioè non è che schiaccia l'interruttore e si accende la luce, non funziona così. Qualche volta funziona, attenzione, che in realtà anche quell'altro, quegli altri, non aspettavano altro, in realtà c'era davvero stato un malinteso, che ne so, c'era stato male, perché noi pensiamo, ah, ci sto male io, ma molte volte ci stanno male, molto più male gli altri. E quindi fare la pace non è però così immediato. Ecco, qualcosa richiede tempo, molto tempo. Qualche volta può essere anche che uno non ci arrivi a fare del tutto la pace, cioè che quello lì però resta come... per certi versi resti altre volte anche tu, cioè, vabbè, però no, ecco. Però l'importante è che tu cominci, perché nell'inizio già c'è un po' la pace. L'importante è anche se l'altro fa difficoltà ad accettarla. Torneremo su questo dopo la musica, sui tempi e i momenti della pace, anche con l'altro. E adesso lancio un brano musicale di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Memoria, E rieccoci sulle note musicali di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Stavamo dicendo, ci sono anche però dei momenti, dei tempi per fare la pace, perché non è detto che poi l'altra persona, la persona che abbiamo offeso, sia subito disposta ad ascoltare la nostra richiesta di perdono, no? E però c'è chi ce l'ha fatta, ci sono degli incontri, per così dire, sulla soglia, quasi degli incontri impossibili, che vengono chiamati di giustizia riparativa, dove i carnefici incontrano le vittime o delle famiglie a cui hanno ucciso parenti, insomma, oppure le vittime coinvolte. E tu nel 2019, partecipando in occasione del Festival Francescano nell'incontro tra la ex brigatista Adriana Faranda e la figlia di Aldo Moro, Agnese Moro, hai detto una cosa molto significativa sul fatto dell'importanza di dare spazio a questi momenti di dialogo. E volevo chiederti, per l'appunto, perché è così importante lasciare questi spazi che sembrano impossibili. Dunque, bisogna sì lasciargli spazio. Ti rispondo con una cosa che ha detto Agnese Moro, che mi ha molto colpito, perché Agnese Moro ha detto: io la memoria era come un elastico, ha detto. Cioè io mi allontano, penso in fondo di superare, eccetera, eccetera, ma poi ritorno sempre lì. Ritorno sempre a quello che era successo a mio padre, alla tragedia che c'è stata, e quindi mi si rovina tutto, diciamo così, perché poi io penso che... Perché il tempo dice, no, il tempo risolve i problemi. Non è così automatico che il tempo risolve i problemi, perché vabbè, li risolve se poi uno, diciamo, perde la testa, non capisce più niente, vabbè, a quel punto si è dimenticato tutto, perché ha cancellato proprio tutto il disco rigido, ma quello non è la soluzione, no? E quindi lei parlava di questo elastico, e dice, quando è che mi sono liberata da questo elastico? Quando proprio ha iniziato a parlare, a dialogare, con Adriana Faranda, che era appunto una del gruppo che sequestrò e poi uccise Aldo Moro. Non fu lei materialmente, anzi lei si dissociò dalla scelta degli altri brigatisti, ruppe con le Brigate Rosse proprio per questo, che lei non era d'accordo sull'assassinio, però si prese tutta la responsabilità, chiaramente, che peraltro aveva, no? E questo dialogo, all'inizio molto faticoso, pieno di dubbi, di sospetti, dialogo che non aveva nessun valore giuridico, questo è molto importante, cioè non è che lo faceva la Faranda perché così aveva già pagato tutto, non aveva niente a che vedere con le aule giudiziarie, era proprio con la vera aula, come abbiamo detto l'altra volta, che è la stanza nostra, che è la cella del nostro cuore, no? E lì sì, allora, che bisogna liberarsi. E poco alla volta questo dialogo ha portato a conoscere, a capire, a diventare, a superare talmente tanto da diventare, ad avere un rapporto di comprensione e direi quasi di amicizia, no? E di amicizia. E questo è il vero superamento. E Agnese disse: io da allora non mi funziona più, cioè non ho più l'elastico. Cioè, non lo vedo mio padre soltanto dietro, ma ho capito, mi ha liberato questo, perché ho capito le ragioni, ho capito i motivi, ho capito l'assurdità, ho pianto con lei, ho capito anche la sua sofferenza, e questo mi ha permesso di staccarmi da quell'elastico che mi riportava sempre all'odio, alla vendetta, insomma, a quello che era successo il 9 maggio del 1978. Grazie Matteo, torneremo con te la prossima volta. Non è facile. Sempre... Non è facile, assolutamente. Non è facile. Ed è però forse la vera riparazione, no? E lì c'è quella cosa che appunto si dice, che è molto vera, di questa tecnica, l'ho letto su Hermes Ronchi, che dice sempre le cose tanto intelligenti, della tecnica cinese, che quando si rompe un vaso in realtà si riaggiusta, e si riaggiusta con l'oro. E per cui tu vedi anche tu quello che si è rotto, ma il vaso è più prezioso di prima. Con un materiale nobile. È ancora più bello di prima. Esatto. Lanciamo l'ultimo brano musicale di oggi, e ci tengo a lanciarlo, di Bob Dylan, Blowing the Wind. Comincia così il brano dicendo: quante strade deve percorrere un uomo